perché ieri è avvenuta una cosa importante nella nostra radio. Non siamo più soli a fare puntate, ma un nostro amico, anche lui, ha fatto una puntata. Antonio ha finito la sua puntata con una domanda. Non avete mai sentito nelle tante ore, nei tanti giorni, negli anni passati a scuola una sensazione intollerabile di fastidio, di sofferenza, come di qualcosa che non riuscite veramente a sopportare? Ecco, se lo avete sentito, potete già iniziare a capire qualcosa di tutto quello che vi sto dicendo e vi dirò nelle prossime puntatine. Non deve essere imposto la cosa, deve essere un piacere studiare, capito? Non deve essere fatto. Poi certo, a quell'età, cioè, insomma, io avevo 13 anni quando sono entrato al classico. Ma per esempio tu ti ricordi chi ti ha insegnato a allacciarti le scarpe? Sì, mia madre. Ritengo che l'estensione delle competenze, la sovrapposizione delle competenze sia un modo di arricchire il mondo. Qual è la prima, cioè cos'è che devi imparare un bambino, preadolescente, adolescente, ragazzo, no? Mm-hmm. Secondo me la prima cosa che devi imparare è usare le mani. Altri punti di vista ci interessano, perché gli altri punti di vista servono a metterci in discussione, a farci crescere. Quindi ogni volta che parlo con qualcuno che è ancora convinto che la scuola sia un elemento importante per l'evoluzione e la liberazione dell'essere umano, sono contento. Ma tu la rifaresti la scuola? Il liceo sì. Parliamo anche della possibilità di imparare la musica. Sì, esatto. E tu, Simone, la scuola la terresti o la aboliresti? Completamente. No, la terrei anche solo perché uno vede tanti tipi di insegnanti e tanti tipi di personalità. Pensi che qualche tua fidanzata ti abbia insegnato qualche cosa? Per carità della Madonna! Ma che vuoi che mi abbiano insegnato? Che ne so? Beh, qualcosa ti avranno... A essere peggiore, vabbè, qualcosa, Cristo mio Dio, anche nel negativo. In questi spazi che probabilmente all'inizio condurrò da solo, ma spero di condurre presto in compagnia, si vorrà porre in discussione questo dogma, il dogma della scuola, un dogma che forse è il più grande ancora di quelli che abbiamo accettato nella società nostra. È bello questo flauto, dicono che è doppio. Sì, non è male. È bello. Non so se lo dicono a Milano, uno di Milano lo diceva. Sì, sì. Istruzione, prova nella tua vita istruzione al di fuori della scuola, a parte la madre eccetera, che è chiaro che ci insegna, sì. Ma tutti, Marco, tutti, però nella narrazione a noi, cioè, dice, ma non poco. Tutti per un, a livello, c'è qualcosa che vuoi dire, raccontarci, che ci, ma so. Io posso, non so, almeno come vivo io, insomma. Cioè, come vivo il mio corpo, come ho sempre vissuto, è quello di prendere veramente ogni cosa. Cioè, insomma, cioè che l'insegnamento non è che... Cioè, non lo vedo come una cosa proprio specifica di un ambito. È proprio una questione tipo a livello sociale, imparo dalle persone, imparo da come ride una persona. Ma non è che imparo che via in magazzino, cioè proprio me lo entra dentro di me. Ma non so, ci sarà stato magari una volta che questo procedimento che accade sempre, è chiaro che accade sempre, ma che ne sei stato più consapevole e che quindi lo puoi comunicare meglio a noi, no? Sì, per esempio una cosa divertente, insomma, che quando ci ho avuto due band, no? In cui eravamo sempre due amici, cioè in una band eravamo due, io e un mio amico, no? E poi il resto della band. E cantavamo entrambi. E le nostre voci erano identiche. Secondo l'altra band, sempre io e un altro mio amico, nel giro di due anni dopo, neanche, no, di meno, insomma, cantavamo entrambi, le nostre due voci erano identiche. Allora? Cioè, non so come dire... Il simile attrae il simile, insomma. Ma non è che il simile, cioè che una cosa si comincia a fondere quando da qualche animale pensi di aver imparato qualche animale che sia diverso dalla nostra specie. Animale? Pensi di aver imparato qualcosa? No. No. Un gatto. Forse i gatti, io quando ero piccolo c'avevo un sacco di gatti, sì, ma non domestici, tutti i gatti. Pensi di aver potuto no. O aver insegnato qualcosa a loro? Figure di maestri no. No? Solo i musicisti che mi piacciono di più. Ah, quindi solo musicisti hanno insegnato? Penso di sì, beh, mi hanno fatto proprio da guida totale, da... abbastanza comunque bravetti a scuola, no? C'era io ero una pippa. Anch'io ero una pippa. E tu Simo? Bassissimo. No, io ero... Lei era brava. Bravina, sì. E anch'io ero... Ma ecco, voi che eravate delle pippe. Sarei te una pippa, Marco. Di certo in questo momento in cui ancora la stragrande maggioranza delle persone hanno questa fiducia cieca nella scuola, è necessario dire esattamente il contrario, in modo radicale. All'epoca ero talmente piccolo che qualsiasi cosa dicevo non veniva presa in considerazione. Ovviamente. C'era un ragazzo che aveva dei problemi, insomma. Tipo, non so cosa ci avesse, insomma. Tipo di testa? Sì, di testa. Disadattato, insomma. Disadattato, sì. E questi ragazzini qua mi dissero, dai, andiamo a rompere il cazzo un po' questo qua. E ho detto, sì, vabbè, io vado, però prima vado in bagno, però. Prepariamoci. Io vado in bagno, torno, e c'era tipo sto qua caduto per terra, gli avevano fatto degli sgambetti. Corri. E sono arrivato, e questa cosa qua proprio mi ha... scioccato. Mi ha scioccato. Questo bambino non veniva spesso a scuola, veniva ogni tanto. E quindi quando veniva c'era una specie di gioia, poi lui era strano perché non parlava bene e quindi noi facevamo festa quando veniva e ricordo una volta che lui era al centro, noi eravamo tutti sparsi per la classe, lui era al centro, sembrava il capo di tutti, sembrava il leader, lui parlava con queste parole incomprensibili, tutti si muoveva. Era anche un po' più grande di noi, no? Anche il mio era più grande. Mi ricordo esattamente che questa persona non si capiva che cazzo dicesse, no? E però noi sentivamo che aveva qualcosa di più. Praticamente è andata così, che l'Homo sapiens si stava per estinguere, perché finita la glaciazione erano finite le grandi bestie da caccia, capito? Si sono estinte all'improvviso le grandi bestie da caccia. Quindi per trovare il cibo era molto difficile trovare il cibo. Si è rischiato, il genere umano ha rischiato di estinguersi perché non conosceva l'agricoltura, capito? È per questo motivo che è nata l'agricoltura. E lo stregone c'aveva il potere di dire se avrebbero cacciato o meno. Era più importante del re che faceva le guerre, capito? E è rimasto così tuttora oggi. Sì, sì, ma voi stiamo parlando di un'altra cosa. Vado a farmi una menzione. Ragazzi. Che meraviglia. Io no, comunque volevo dire soltanto tre cose brevissime. Una è che secondo me la scuola è la cosa più importante di tutte. Poi una volta è morto, una volta lei portò il due pulcini per farci imparare e portò anche una girino. Allora, noi eravamo tutte le bimbe lì e avevano messo una panca per terra. Sì, lei faceva, era bravissima quella maestra, quella era proprio bravissima la cuore. Avevamo messo una panca per terra, il pulcino girava e faceva e camminava e i maschietti di merda giocavano a darsi il volto. A un certo punto sono caduti sulle bimbe, le bimbe sono caduti su questa panca, la panca è caduta sul pulcino e gli ha schiacciato la testa. Cioè, mica che insegnamento che avete avuto, bellissimo. E sopra noi... la panca, la panca. E abbiamo, noi abbiamo pianto per due o tre giorni. Carino, mangi più bollo. No! È rimasto un trauma. Guarda, e però poi ho fatto una cosa cattivissima, ho tagliato la coda al girino. Cioè, più lavora sull'immaginazione dei bambini, quindi cerca di sfruttare l'immaginazione. Oh. Salute! E qualche altro maestro al di là della scuola? Era magari il super artistone mio zio, capito? Quindi era già lui un artista. Però, sì, sì, non mi ha mai insegnato nulla, cioè. Spenso. Solo come esempio, no? Ma un episodio della tua esperienza di insegnamento che ti piace condividere? Qualcosa che. Una lettera al preside. Tardissimo, ma voi siete avanti. Io siamo arrivati anche tardi. Siamo proprio arrivati. O ci apriamo una boccia di vino. Apro una boccia di vino. È per questo che io dico che forse la scuola come istituzione si vuole prendere troppa importanza, perché la scuola già c'è in giro, bisognerebbe fare, forse pensare a essere il più discreta possibile dovrebbe essere la scuola, no? Meno influenzante possibile, meno cogente, no? Meno... Guarda, forse la cosa buona appunto è che c'hai compagni, cioè che la scuola ti permette di avere dei compagni. Che è sempre il vantaggio rispetto al precettore privato. No? Secondo me comunque riesce a farti dei compagni in maniera molto migliore fuori dalla scuola. Forse anche, certo. Nel sì. Momento di imparare. Sì, forse sì, scegli, che ne so. Non si ferma più lo scioccone.